Avere dei giusti pensieri è indispensabile almeno per due motivi, sia perché questi formano il nostro essere, sia perché è un ordine di Dio. Uno dei brani forse più significativi in merito a questo tema è contenuto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai credenti di Filippi. Una riflessione sulle sue parole è molto importante. Ecco il testo. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora. Rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Filippesi 4.49. Non vi è nessun successo nella vita se l'uomo non impara prima di tutto a rallegrarsi. L'animo contento e felice è l'ingrediente per addolcire ogni situazione, per quanto negativa sia. Da un certo punto di vista, è comprensibile che chi non ha fatto nessuna esperienza con il vero Dio sia già perdente dall'inizio, ma non per un figlio di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo ordina ai credenti di rallegrarsi, non in ciò che capita nella vita, ma nel Signore. Rallegrarsi per quello che è Dio, per quello che nella sua misericordia ci somministra, è un elemento sempre valido, mai soggetto a tempo o a circostanze. Quando il cuore è allegro è possibile vivere con uno spirito docile e non essere ansiosi di nulla. Tutto viene portato in preghiera a Dio, perché Lui provveda. Questa deve essere la vita normale del cristiano. Detto questo, Paolo aggiunge però un altro elemento indispensabile perché sia fattibile una vita cristiana secondo la concezione di Dio, cioè la necessità di nutrire dei pensieri atti a farci stare bene e far star bene il prossimo, indicando sette aspetti. Eccoli qui elencati. 1. Cose vere. 2. Cose onorevoli. 3. Cose giuste. 4. Cose pure. 5. Cose amabili. 6. Cose di buona fama. 7. Cose in cui vi è qualche virtù e qualche lode. Cose vere. Sono sicuro di camminare sulla retta via. E, proprio vero, quello che ho sentito e che ora sto proponendo come verità, si tratta di una notizia fondata o di una supposizione. Molte informazioni sono semplicemente rumori che non superano la prova di uno scrutinio, alterate dalla fantasia e da supposizioni. Spesso prendiamo troppo sul serio quello che ci viene detto e avanzare dei dubbi non è sinonimo di mancanza di fiducia, ma semplicemente accettare la relatività di quanto l'essere umano ascolta e poi ripropone in parole o fatti. Questo non significa che il prossimo sia bugiardo, ma è solo questione di prestare attenzione al saggio proverbio. Il primo a perorare la propria causa sembra che abbia ragione, ma viene poi l'altro e lo esamina. Proverbi 18 e 17. Prima di parlare, è sempre bene verificare, come ha fatto l'evangelista Luca, Luca 1.14, informarsi accuratamente di ogni cosa dall'origine. Se lo hanno fatto uomini di Dio, quanto più noi dobbiamo esaminare attentamente se ciò che diciamo e facciamo corrispondono alla verità. Un tale modo di giudicare è gradito di Dio. Cose onorevoli. Ciò che hai sentito è onorevole e degno dell'approvazione di Dio. Si tratta di qualcosa che onora Dio. Non ti chiedo se tu la ritieni onorevole, perché quando un'abitudine è assodata nel tempo, quando sei convinto di una cosa, molto difficilmente potrai essere obiettivo. ti chiedo di verificare nella parola di Cristo dataci da Dio, se ciò che dici o guardi dia rispettabilità a Dio. Per esempio, preghi altre persone all'infuori di Gesù Cristo e del Dio nel quale sussistono tre persone. Sembra che pregare Maria, la madre di Gesù e i santi, nominati tali dal cattolicesimo, non si sia nulla di male. Ma se leggi la scrittura, troverai che vi è un solo mediatore tra gli ei e gli uomini. Gesù Cristo. Un solo mediatore. Ci credi? Giudicati giustamente. Cose giuste. Tutti noi abbiamo un'etica, che cambiamo con il passare del tempo. Quando eravamo più giovani, pensavamo che i nostri genitori sbagliassero grandemente. Poi, diventati genitori, a nostra volta, abbiamo smussato di molto i nostri giudizi. Da bambini pensavamo che una persona di 60 anni fosse vecchia, ma arrivati a questa età ci rendiamo conto che la vecchiaia è molto lontana. Proprio per queste valutazioni sbagliate bisogna fare molta attenzione se quello che si dice e si fa sia cosa giusta. E poiché le nostre valutazioni sono sempre soggette alla nostra età e all'opinione pubblica, anche in questo caso occorre ascoltare Dio e fare ciò che è gradito ai suoi occhi. Perché? Perché in Dio non vi è mutamento, così ciò che è giusto ai suoi occhi oggi è giusto anche domani. Tale giudizio non corrisponde forse alla realtà? Cose pure. Sembra che la purezza oggi non esista più. Tutto è inquinato. Aria, acqua, cibo. Purtroppo è così anche nel campo della morale. Con questo non si vuol dire che sia sbagliato tutto. Così come l'aria, l'acqua e il cibo non sono completamente inquinati. Ma si vuol dire che, nell'ubbidire alla volontà di Dio, spesso non si fa esattamente ciò che Dio richiede. Facciamo del bene, se lo facciamo per meritare il paradiso, questo è sbagliato. Diamo del denaro per i bisognosi, se lo facciamo per essere visti o onorati, questo Dio lo disapprova. Preghiamo Dio? Cosa buona! Ma spesso chiediamo per i nostri piaceri. Con questo quadro, le cose pure sono veramente rare e solo un attento esame di noi stessi può aiutarci a comprendere ciò che non è gradevole a Dio. Questo è il giudizio che Dio vuole che tu faccia. Cose amabili. I sinonimi di amabile sono piacevole, simpatico e attraente. Queste parole possono nascondere una trappola, perché drogarsi, secondo molte testimonianze, meno è piacevole e attraente. Infatti non tutti i peccati sono ripugnanti. I peccati di gola e sessuali difficilmente sono definibili come ripugnanti o spregevoli. Perciò, quando la parola di Dio ordina di fare ciò che è amabile, non intende il riferimento al nostro gradimento, ma al giudizio di Dio. Io posso fare una cosa che non mi piace meno, come confessare un mio errore, meno ma che è amabile davanti a Dio, il quale vuole prima di tutto la sincerità e l'onestà. Nei Vangeli si ricordano 10 lebbrosi guariti da Gesù, ma dei quali uno solo tornò indietro per ringraziare Gesù. Questa è certamente una delle cose amabili che Dio approva. Ho giudicato rettamente? Cose di buona fama. Anche questo aspetto della volontà di Dio deve essere capito. Buona fama significa che una cosa è conforme ai principi morali della società. Ma non è questo il significato inteso dalla parola di Dio. È vero che ci sono azioni note a tutti per i loro principi morali, ma un induista che prega 300 milioni di dei nel suo paese può avere una buona fama, ma non davanti a Dio. L'ordine di Dio è compiere nella società cose che sono approvate dalla maggioranza solo se questa maggioranza è in armonia al divino volere. E, di moda avere rapporti sessuali prima del matrimonio? La maggioranza non discrimina un tale comportamento, ma Dio sì. E il suo giudizio non sbaglia. Cose in cui sesto è qualche virtù e qualche lode. Quest'ultimo aspetto è molto importante per la vita di un cristiano. Non vi è nulla di perfetto in questo mondo imperfetto e, dopo un breve romanticismo in merito al cristianesimo con il quale pensiamo di risolvere tutto, ci rendiamo conto che i principi di Dio non si incastrano automaticamente nei complessi problemi della vita. Inoltre, come se questo non bastasse, ci rendiamo conto che le interpretazioni della volontà di Dio sono varie. Perciò il cristiano ha spesso dei dubbi e molte incertezze, perché nella nostra esistenza non vi è soltanto il bianco e il nero, ma molto frequentemente anche il grigio e molti altri colori. Come comportarsi? Posso guardare un film? Difficile rispondere, ma se la trama ha dei buoni insegnamenti morali, se anche lo spettacolo presentasse qualche scena dubbia, essa costituisce una parte integrante della trama, e non credo che si debbano avere dei sensi di colpa a causa di questa. Sta a noi ritenere il bene e lasciar correre il male. Così è dei miei pensieri. La nostra mente è ingovernabile e di tutto quello che passa per la mente riterrò quanto possa contenere qualche virtù e qualche lode. Così è anche nel fare. Quando penso a come aiutare il prossimo, se le vie non sono perfettamente regolari, conformi ai canoni della società, posso anche continuare a pensare a questa virtù. Quel qualche di Paolo dimostra che anche lui conosceva l'impossibilità della perfezione. Chi vuole essere perfetto in un mondo imperfetto troverà un perfetto problema di coscienza, superabile solo se si è abituati a giudicare rettamente. Infine, Paolo termina il suo ordine nel modo migliore. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Filippesi 4.49. Ecco come deve vivere un cristiano. Deve insegnare agli altri ciò che è giusto, ma deve completare il suo insegnamento con una vita coerente con ciò che dice, al punto da porsi come un esempio di vita. La mia vita deve essere la mia predicazione, così come ciò che predico deve essere la mia vita. Solo allora proverò quella pace che viene da Dio e realizzerò che il Dio della pace mi aprirà le porte che devo attraversare e mi chiuderà quelle che non sono per il mio bene. Questione di fede. Quella fede, mediante la quale mi sono buttato tra le braccia di Cristo tanti anni fa e che mi fa tenere ancora gli occhi fissi su Gesù, quale giudice, il quale con un ultimo giudizio, valutazione e giudizio condanna, darà a ciascuno ciò che gli spetta, proprio l'ultimo. Novembre 2012. Ellero.